Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ultimo appuntamento per questo 2014 con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, insieme al presidente Carlo Garofolini, che saluto, benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, dicevo ultimo appuntamento, ma poi l'anno prossimo continueremo la nostra solida collaborazione dove raccontiamo un po' di cose che capitano agli italiani e alle tasche degli italiani, anche perché poi con la fine dell'anno, anno nuovo, gabelle nuove, come sempre. Proprio l'altro giorno leggevo che nel 1974 con la fine dell'anno si aumentavano le tariffe delle autostrade piuttosto che, ma nel 74, ma quasi ogni anno, insomma, è una cosa che succede. Anche quest'anno capiterà questo, poi ci aspettano altri ritocchini in su e in giù, la tassa di soggiorno per chi affitta la casa di vacanza, insomma, ci sono tante belle leggine che vanno a toccare il nostro portafoglio, però dall'altra parte c'è anche qualche bella novità. Sì, come ha detto Francesco, tanti piccoli rincari, ricordiamo anche quelli che saranno probabilmente i pedaggi autostradali rispetto ad altre limature che insomma pensano sempre a proporre all'inizio dell'anno, tanto per far arrotondare i conti. Però come ha detto ci sono anche delle importanti novità che riguarda in particolar modo la proroga delle detrazioni del 50% e del 65% per chi decide fare degli interventi sulla propria abitazione rivolti non solamente a ripristino ma anche a nuovi interventi o a interventi di risparmio energetico. Quindi migliorie come per esempio anche cambiare gli infissi delle finestre, che magari sono quelli a un vetro di tanti anni fa, che fanno entrare un mucchio di freddo o uscire un mucchio di caldo. Beh, allora innanzitutto volevo parlare della novità, in particolare una serie di agevolazioni dalle schermature solari, cioè per la prima volta in questo pacchetto vengono inserite tutte quelle che sono le novità riguardo, per esempio pensiamo alle tende esterno o ad altre tipologie di protezioni per evitare che i raggi dei soli possano provocare un surriscaldamento o un innalzamento della temperatura della casa. Poi per quanto riguarda il resto, il 65% e il 50% sostanzialmente viene riproposto com'è, introducendo anche la novità di quello che potrebbe essere per esempio l'acquisto di una caldaia a biomasse o una caldaia a pellet, che non confondiamoci con la stufa, che come alternativa a quelle che sono l'utilizzo di combustibili fossili, certamente dà la possibilità di detrarre fino al 65%. Ricordandoci però che proprio di questi giorni il governo ha pensato di aumentare l'IVA sui pellet dal 10 al 22% e che quindi questo è bene fare un ragionamento e valutare con la massima serietà la vera e propria convenienza rispetto a quello che potrebbe essere un combustibile tradizionale che in questa fase di crisi del petrolio è arrivata un po' ai minimi storici come prezzo metro cubo. Ecco, quindi è stato aumentato l'IVA sul pellet, quindi più di un 10%, di solito costa 3,5-4 euro a pacco, sono 40 centesimi di tasse che volano, insomma. Purtroppo un aumento del 12%, come hai detto te, su un costo che varia intorno ai 4 euro, vuol dire che questo arriverà circa 4,50 euro, e in questo periodo di freddo chi ha una tuffa pellet sa che un pacco bene o male al giorno se lo fa fuori, quindi 50 centesimi 30 giorni, siamo un aumento di circa 15 euro al mese. E poi ricordiamo quello che è un'importante novità che è stata piaciuta molto nel 2014, che viene prorogato anche la possibilità di detrarre il 50%, il famoso bonus dei mobili, fino a un importo massimo di 10.000 euro. Quindi vuol dire che in questa fase c'è un incentivo per chi che vuole cambiare i mobili come la camera, la cucina e altre cose, di poter detrarre fino a un massimo, un importo fino a un massimo di 10.000 euro, il 50%, quindi insomma anche questo è un intervento che può aiutare un settore in grossa crisi come quello che è quello del mobilificio in questo periodo. Certo, però questa cosa vale se stai facendo delle ristrutturazioni alla casa. Sì, deve avere fatto, come detto, un intervento di ristrutturazione, quindi già precedentemente deve aver fatto un intervento. Ricordiamo che gli interventi non devono essere interventi di nuova realizzazione ma di mantenimento dell'opera, che può essere, come ho detto, un adeguamento infissi, ma può essere anche una tinteggiatura, un rifacimento di quelle che sono anche un po' le attività normali che una casa dopo tanti anni, come un nuovo impianto d'allame, come cancelli, come una nuova tinteggiatura, come un rifacimento di una parete di intonaco. Insomma, sono tante cose che insomma vale la pena, come può essere anche, come viene in mente, rifare un bagno, dà una possibilità di risparmiare bei soldini. Il problema è che i soldini che ti dà modo di risparmiare vengono spalmati in 10 anni e il tetto massimo che si può arrivare a detrarre sono 96.000 euro, quindi anche qui bisogna avere la fortuna di pensare con una certa serenità di poter lavorare per altri 10 anni, perché sennò si rischia che tutte le buone intenzioni poi alla fine non si rivelano adeguate, perché se poi uno perde il lavoro o capitano degli eventi di forza e causa maggiore, si perde quello che è un beneficio che voleva stimolare un po', ecco, spendere in questo periodo. Ecco, quindi bisogna prestare attenzione prima di scegliere di fare un'operazione del genere, insomma, a quelle che sono le nostre possibilità. È importante ricordare che per ulteriori informazioni siete sempre a disposizione con la vostra sede, con il vostro sito, che è associazionedifesaconsumatori.it. Sì, noi queste informazioni le diamo tutte, ricordiamoci che poi nello specifico o nel dettaglio chiunque può anche consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate. La cosa più importante è ricordarsi sempre che bisogna effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, facendo riferimento a quello che è il numero della legge riferita alle detrazioni, di cui in banca ci sono già i moduli prestampati. Questa è una cosa molto importante, perché poi i soldi si vanno a recuperare in occasione della compilazione dei redditi 730, e non sarebbe mai piacevole scoprire di aver sbagliato qualcosa un anno dopo circa, e quindi perdere un beneficio che potrebbe darci la possibilità di recuperare i soldini per i prossimi 10 anni. Certo, grazie quindi al presidente Carlo Garofolini dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, l'augurio di un felice ultimo dell'anno, di un primo anno nuovo, chissà che per l'anno prossimo possiamo dare molte notizie positive e meno tristi, come spesso, ahimè, ci tocca dare. Purtroppo sì, ti do ragione anch'io, l'occasione è gradita anche per salutare te e fare gli auguri alla redazione e a tutti gli ascoltatori di buon anno. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.